e benvenuti alla seconda puntata di Cialtroni nello spazio. Una trasmissione informatico-musicale? Settimanale tutti i venerdì alle 4 e in replica all'1:30 nello spazio di dissonanze. Il mercoledì. Benvenuto da Marco, da Alessandro e da Francesco. Ancora 10 secondi di fantastica sigla. E adesso possiamo andare a vedere un po' qual è gli argomenti che andremo ad affrontare oggi. Alessandro, ci fai un po' il sommario? Dunque, oggi iniziamo con l'intervista a Wu Ming, è ormai un personaggio molto conosciuto, insomma, famosissimo il suo primo libro, insomma, che si chiama Q. E quindi andremo a sentire l'intervista che ha realizzato Francesco. Poi cercheremo di introdurre i sistemi operativi, questi oggetti strani, in maniera poi da andare a parlare nelle prossime trasmissioni di Linux. E in seguito parleremo di spam, posta indesiderata, spam, come la volete chiamare, e quindi anche di Thunderbird, che è un ottimo client di posta e con filtri di spam, eccetera. Il brano che stiamo ascoltando è Rule Roulotte di Yellow Capra. Purtroppo i nostri musicisti non possono essere con noi quest'oggi, quindi diamo noi un paio di riferimenti relativamente a questo gruppo, che è nato a Milano alla fine del 2001, provenienza artistica che ha subito delle influenze di diverse esperienze che hanno spaziato, un po' come noi che spaziamo nel software, nelle sue poliedriche sfumature viene dal rock e dalla musica classica. Cosa particolare di questo gruppo è che quando fanno i loro concerti si accompagnano spesso con video e dei filmati fotografici. E dopo questo brano musicale andremo ad ascoltare l'intervista con Wu Ming, in particolare con uno dei Wu Ming, nome collettivo che è nato dopo la dissoluzione del gruppo Luther Blissett. Noi sentiremo l'intervista con Wu Ming 1, a cui andremo a chiedere cosa significa fare letteratura senza porre il copyright sulle proprie opere. intanto permettimi un brevissimo preambolo. Volevo esprimere, già che sono su Radio Onda d'Urto, la mia solidarietà al magazzino 47 per l'attentato incendiario che c'è stato l'altro giorno, e anche se questo non c'entra con il soggetto della domanda, però credo che c'entri sempre e comunque questo argomento. Grazie. Okay. E niente, allora la questione è questa: noi pubblichiamo i nostri libri con una formula copyleft, cioè copyleft è un gioco di parole inglese, intraducibile in italiano, ha diversi significati, perché left è il contrario di right, sinistra e destra, però left è anche il participio passato di leave, che vuol dire lasciare, nel senso di concedere, di permettere, e quindi copyleft vuol dire copia autorizzata, copia permessa, diciamo così, una specie di concessione da parte dell'autore, però vuol dire anche una specie di copia di sinistra rispetto invece al copyright, che sarebbe più a destra, insomma un gioco di parole abbastanza denso. Copyleft significa che la riproduzione è libera, con le eccezioni che di volta in volta decide l'autore, esistono diverse formule. Nel nostro caso la dizione dice che questa riproduzione non deve essere a scopo di lucro. Infatti uno può scaricare per il proprio uso personale il libro dal nostro sito, oppure può fotocopiare il libro, può insomma prenderne degli stralci, metterli sul suo blog, può fare qualunque cosa col libro, tranne che trarci un profitto. E, ad esempio, non può essere a sua volta rivenduto, una volta, cioè non può essere messo a pagamento scaricabile, o non può, insomma, non possono esserne fatte edizioni pirata, cose di questo tipo. Questo perché noi siamo dell'idea che un conto sia il diritto d'autore, un conto sia il diritto di copia. In Italia spesso copyright viene tradotto con diritto d'autore, ma è una cosa un po' diversa. Diritto d'autore è il diritto di chi ha lavorato per scrivere il libro a ricevere un compenso per il lavoro, come, cioè, noi insomma pensiamo, la sinistra ha sempre pensato che chi lavora debba essere compensato per lo sforzo che fa, e essere uno scrittore è un lavoro come gli altri, quindi è giusto che venga retribuito nel miglior modo possibile, sempre commisurato allo sforzo naturalmente che si è fatto. Se un libro è tirato via è giusto non dare i soldi al suo autore, ma se l'autore si è impegnato è giusto che veda una remunerazione. E questo è poi anche il diritto, diciamo così, alla paternità, cioè a riconoscere questo libro l'ho scritto io, eccetera, perché poi insomma ci sono autori per cui questo aspetto è anche più importante di quello monetario. Però questo è una cosa, invece impedire la riproduzione dell'opera è tutt'altra cosa. Secondo noi la riproduzione è sempre benvenuta, perché fa circolare l'opera. Fa circolare l'opera, la rende più conosciuta, in più è un modo anche per verificare il contenuto del libro non a scatola chiusa e poi magari decidere di comprarlo per sé o per altri, regalarlo e cose di questo tipo, e non si può che trarne beneficio se si è degli autori o degli artisti dalla libera riproduzione e dalla non restrizione della circolazione dell'opera. Nel nostro caso ne abbiamo tratto grande beneficio, perché abbiamo dimostrato, almeno nel caso dei libri, che una copia scaricata di un nostro libro non equivale assolutamente a una copia non venduta in libreria, anzi, più si parla del libro, più il libro viene consigliato, più viene venduto in libreria. Capita che qualcuno scarichi il file di un nostro libro dal sito e cominci a leggerlo e magari si stanca di leggerlo, insomma, stampato su A4 e cose del genere, e lo va a comprare, ma anche se lo finisce, anche se lo legge tutto, poi se gli è piaciuto, perché poi il punto è sempre la qualità di ciò che offri, se gli è piaciuto ne parlerà in giro oppure deciderà di regalarlo. Al momento di regalarlo non è che regalerà dei fogli A4 stampati dalla sua stampante, ma vorrà regalare un oggetto che piaccia, eccetera, che renda anche più comodo la fruizione, e quindi andrà in libreria a comprarlo. Nel nostro caso questo è successo innumerevoli volte. Il nostro romanzo più longevo, il più vecchio, diciamo così, il nostro primo romanzo Q, è scaricabile online e pubblicato con copyleft già da 6 anni, eppure continua a vendere tantissimo, e adesso recentemente è stato ristampato per l'ennesima volta, credo che abbia avuto 15-16 edizioni in questi 6 anni, e noi vediamo dalle statistiche del sito che continua anche a essere scaricato tantissimo, da centinaia di persone ogni settimana. Secondo il pensiero comune, diciamo così, i luoghi comuni sul copyright, dominanti presso l'industria culturale e presso i giornalisti, diciamo così, asserviti, queste due tendenze dovrebbero essere assolutamente in contrasto una con l'altra, anzi dovrebbero elidersi, cioè più scarichi meno vendi. Invece nel nostro caso, e penso sarebbe così nel caso di chiunque, a condizione che quello che scarichi piaccia, è che più scarichi e più vendi. Mi va, porti appresso la pistola, sembra sempre un'emergenza, piscia apposta nell'aiuola, gli altri tocca fare senza. Il gorgo mi dà la felicità, la gente bloccata sta male, io godo, impazzisco, poter superare una coda infinita di gente sfinita. No! Bisogno di permesso per girare nel centro, il permesso sono io, e se vado contro mano è di nuovo un'emergenza. Modestamente urbano, fottutamente vigile, ti conviene andare piano. Lo so che mi disprezzi, ma io chiamo il caro prezzi. Stop al panico, la tua posizione troppo fuori dalle strisce, sei in contravvenzione. La paletta me la porto ogni notte anche nel letto. La paletta per l'oggetto, fare il vigile romantico, trovarsi alla sera nel parco coi colleghi, la chitarra, un pentolone di fagioli, a raccontarsi vecchie storie e leggende urbane. Non sono mica tanto tonto, grave mi lascia stare. Come pescatore esperto, mette le scalavo, la festa è il centro storico, noi organizziamo, arrivano a fronte dei piccoli pesci, li muto come un pazzo, non ne frega un cazzo. Passando un po' sceriffo, lasciamo troppo cavallo, scoreggio il pieno centro, sulle qui. Cittadino, son coraggioso e franco, con visione e memoria, con zero piano piano. E questi erano appunto i Paolino Paperino Band con la loro canzone Vigile. E i Paolino Paperino Band sono un ex gruppo musicale di un po' di anni fa che ha praticamente su internet si può trovare la loro discografia completa scaricabile, perché probabilmente non gli interessa più, cioè hanno scelto questa distribuzione di vecchie canzoni che probabilmente non ha mai neanche registrato come SIAE. E vi consigliamo, sono un genere rock demenziale veramente simpatico. Passiamo ora al prossimo argomento della trasmissione di oggi. Allora, tenteremo di spiegare che cos'è un sistema operativo. Qualcuno di voi si sarà chiesto, visto che l'altra volta abbiamo parlato di software libero, perché non abbiamo accennato qualcosa riguardo a Linux, che probabilmente è il progetto più conosciuto di software libero. Il problema è che spiegare che cos'è Linux è già un problema, nel senso che normalmente gli utenti di casa, diciamo, non hanno la più pallida idea di che cosa sia un sistema operativo. In realtà è la cosa che è più indispensabile al loro PC. Il sistema operativo si occupa di tutte quelle cose che servono a far andare un PC. ovvero far comunicare tutte le varie applicazioni che possono essere programmi di videoscrittura, il nostro browser e così via, con l'hardware, quindi con il nostro disco fisso, con la memoria, con le altre periferiche, lo scanner, la stampante, quello che è. Diciamo quindi qualcosa che sta alla base del... cioè senza di quello non dovrebbe funzionare nulla, giusto? Si è detto che cioè, serve per fare accedere appunto alle periferiche, alle stampanti. Serve a fare tutto, qualunque cosa facciamo sul nostro PC passa attraverso il sistema operativo direttamente o indirettamente prima di arrivare all'hardware. Quindi quando lanciamo un programma, clicchiamo due volte, la richiesta viene fatta poi al sistema operativo che fa eseguire, che dà le risorse. Il sistema operativo è praticamente un direttore d'orchestra sostanzialmente, che non fa altro che dirigere tutte le richieste che vengono fatte dai vari applicativi per le risorse, quindi memoria, disco e tutta una serie di cose, la rete. E diciamo appunto, essendo quindi questo, come l'hai chiamato, direttore, è anche forse il punto più delicato di tutto il sistema, perché... se abbiamo ad esempio una scheda audio che fa le bizze, il primo che se ne accorge è, diciamo, il sistema operativo, per cui... Esattamente, uno dei compiti del sistema operativo è, oltre a quello di dare l'accesso e dirigere, diciamo, tutto quello che viene eseguito, è anche quello di rilevare degli errori e di segnalarli. Normalmente questo viene fatto con, almeno sui sistemi Windows, con delle schermate incomprensibili del tipo errore nel modulo XY. Il famoso schermo blu. Oppure anche il messaggino proprio scritto errore nel modulo XY nella memoria, eccetera, eccetera, che normalmente l'utente chiude e dice vabbè, oh, chissà cosa sarà successo. Un'altra cosa importante che fa il sistema operativo si occupa della sicurezza, che vabbè, normalmente nei sistemi casalinghi non è fondamentale, però se... soprattutto però adesso che oramai quasi tutti si devono connettere a internet, la questione sicurezza non è una cosa comunque da prendere sotto gamba, perché appunto deve essere, cioè, il sistema operativo deve essere in grado di dare delle minime basi di sicurezza, appunto in modo che da impedire che un qualsiasi ragazzino che abbia voglia di divertirsi non possa decidere di prendere il controllo del nostro computer facendogli fare quello che vuole lui e non quello che vogliamo fare noi, per esempio. Esattamente. Pezzi dei sistemi operativi sono anche i cosiddetti driver. Quando volete installare qualcosa di nuovo, una nuova periferica sul vostro PC, dovete appunto sempre inserire i driver. Questi non sono altro che dei pezzettini che si vanno ad aggiungere al sistema operativo. Quindi anche questi sono importanti. E giusto per fare però un po' di esempi per chiarire questa cosa del sistema operativo. Ad esempio, vabbè, gli esempi più classici che abbiamo sono, vabbè, prendiamo la famiglia di sistemi operativi della Microsoft, abbiamo Windows 98, che è quello di un po' d'anni fa, 98. Il Windows 2000, l'XP, e questi diciamo sono i probabilmente più conosciuti, però abbiamo ad esempio il nostro sistema operativo per eccellenza, che non vogliamo citare, citiamo soltanto oggi, non vogliamo parlarne, che è ad esempio Linux, però ci sono un'altra serie di sistemi operativi. In realtà, appunto, essendo una cosa molto importante, i sistemi operativi sono state una delle cose più sviluppate e sono anche uno dei software più complessi da sviluppare. Ad esempio esistono sistemi, il sistema Macintosh o Apple o OS X, le ultime versioni, che è sicuramente molto conosciuto. Solaris, che è un sistema aziendale basato su Unix molto usato, BSD, insomma ce ne sono un sacco, rimangono a livello aziendale o marginale rispetto al grande pubblico, però esistono e sono parecchi. E tanto per citarne un altro che è un po' diverso da quelli citati fino adesso, perché soprattutto non funziona sui PC, ad esempio i sistemi operativi della Symbian sono quelli che funzionano su quasi tutti i telefonini di ultima generazione. Ah certo, sì, per poi esempio, ovviamente dei sistemi operativi ne esistono mille tipi. Da bambini si utilizzavano il Commodore 64 oppure la Sega Master System, sì, quelli o le PlayStation. Erano dei sistemi operativi abbastanza rudimentali. In realtà sono più complessi quelli che gestiscono i nostri telefonini, alcuni tipi di videoregistratori, di ricevitori satellitari, terrestri o satellitari. Insomma, dei sistemi operativi ce ne sono mille. Quelli più complessi sono quelli che fanno andare le macchine come i calcolatori PC o workstation o server. Dopo questi suoni tratti da Lukewarm, un FM Ambient 01, che è una delle canzoni che abbiamo tirato giù scaricato dal motore di ricerca per brani musicali gratuito Ogle, che si trova su s8suono.org/ogle. Un altro brano dei Paolino Paperino Band ci introduce al prossimo argomento. Della gorra mi prende troppo male, mi incazzo e poi mi dico, almeno c'ho un nemico, qualcuno da prestare. Abbiamo queste sciarpe blu, arrivo quelli con le gialle, sono nasi rotti e calci nelle palle. Abbiamo i fumi sulla testa, ogni domenica è una festa, ma poi torna il lunedì e la rata è sempre lì. Ma il nemico verrà l'aria che se la spassa, inventa un'altra tassa. Violenza delle piazze, oggi è soldi. Questo era appunto, come dicevamo prima, un'altra canzone dei Paolino Paperino Band, una canzone abbastanza simpatica sugli Ultras. E appunto, cambiamo un po' discorso, però teniamo, diciamo, la vena cattiva data da questa canzone per parlare di una delle piaghe di internet, che è lo spam. Che cos'è lo spam? Lo spam è sono i messaggi di posta non desiderati, di solito i messaggi di posta commerciali non desiderati. Sono nati una decina d'anni fa, forse anche qualcosa di più, e oggigiorno sono diventati ad essere nella posta elettronica la quasi totalità del traffico di posta elettronica. Si parla di miliardi di messaggi spam rifiutati al giorno e milioni che viaggiano, cioè, vabbè, sono cifre veramente assurde. E appunto volevamo appunto dare un po' di informazioni su che cos'è lo spam e soprattutto come tentare di combatterlo, e Per esempio, Alessandro, faccio un esempio dell'ultimo messaggio di spam che ti è arrivato. Ma ultimamente mi arrivano delle pubblicità di prodotti farmaceutici da una casa inglese. Però grazie a Dio lo spam mi ha sempre risparmiato, o perlomeno non è mai stato così massiccio nelle mie caselle di posta. Esatto, per esempio appunto la pubblicità di prodotti prettamente maschili per elevare la potenza sessuale o cose del genere, sì, che hanno, cioè, sono veramente all'ordine del giorno per chi ha una casella di posta su internet, si trova sempre la casella riempita di queste porcate. Come funziona lo spam? Lo spam funziona in questo modo: un tizio decide di diventare ricco in internet e allora prende qualche milione di indirizzi di posta e manda a tutte queste persone un messaggino di spam che pubblicizza ad esempio il Viagra o qualcos'altro del genere. Di questo milione che ne manda, magari ci sono uno o due cretini che rispondono e magari comprano pure il Viagra attraverso questo messaggio di spam che gli è arrivato. Il risultato è che questo qua rompe... si può dire le palle? Sì, ah, sì, sì, ok. Siamo nella fascia protetta. A qualche milione di persone e... però ci guadagna quei 2 euro magari che il tizio che vende poi le pastigliette blu gli fornisce. Anche perché a differenza della posta normale, perché comunque lo spam si può fare anche nella casella di posta normale, lì è pubblica, ognuno può passare dalla vostra via e infilarvi un messaggio pubblicitario. La differenza è che lo spam non costa nulla, inviare un messaggio o un milione ha un costo irrilevante, mandare un milione di volantini è molto più costoso. Esatto, e quindi arriviamo ad avere poi la casella di posta intasata da queste migliaia di email insulse che ci occupano la casella. Cosa fare contro lo spam? Questo è un bel dilemma. Fondamentalmente lo spam sarebbe ogni volta che è ricevuto da ignorare. Questa è la prima cosa per evitare, tra virgolette, lo spam. Mai assolutamente rispondere. Se rispondiamo a un messaggio di spam, colui che ha mandato lo spam scopre che alla casella a cui aveva mandato quello spam lì c'è appunto qualcuno che legge lo spam e risponde pure. Vuol dire c'è qualcuno dietro, non è una casella ad esempio sbagliata o dimenticata o qualcosa del genere. Fondamentale è anche non seguire mai i link che ci sono dentro questa casella, dentro questi messaggi di spam, perché normalmente sono fatti in modo da riuscire a tracciare a chi era stata mandata quella mail e quindi risalire al fatto che la casella di posta venga effettivamente letta e utilizzata. Poi altre cose da fare, esistono dei software che possono analizzare i messaggi di posta per riuscire a scoprire quali sono di spam e quali non di spam, però lì è un po' una... Beh, ricordiamo che in Italia la tecnica di spam è illegale. Esatto, legislativamente lo spam è illegale in Italia, illegale in Europa penso, e illegale in moltissimi posti. In teoria andrebbe fatta una segnalazione al garante per la privacy, che sia lui che se ne occupa. Tecnicamente la possibilità che questo poi vada ad indagare, che effettivamente si risolva in qualche azione giuridica, è molto molto difficile, perché chi fa questo genere di cose di solito ha le spalle abbastanza coperte. Esatto, oppure manda il messaggio dall'estero e quindi alla fine la legge non è italiana, non è applicabile là, e diciamo i trucchi per questi sono infiniti. Ah, diamo anche qualche simpatico trucchetto per evitare di ricevere dello spam. Uno dei motivi, è uno dei modi per poterlo evitare, è quello di partecipare ai forum e ai newsgroup indicando l'indirizzo di posta dei messaggi leggermente camuffato. Una cosa tipica è mettere una parola in grassetto, ad esempio se il vostro indirizzo è pincopallino@libro.org si potrebbe chiamare pincopallino e poi in maiuscoletto scrivere togli questo @libro.it. In questo modo chi un motore automatico che cerca di ricevere, cioè di rubare questo indirizzo dal forum, troverebbe l'indirizzo sbagliato, mentre invece chi tenta di scrivervi può facilmente capire che deve togliere quella parte dall'indirizzo e in questo modo riuscirebbe a mandare un indirizzo, l'email a voi lo stesso. In effetti ci siamo dimenticati di dire una cosa, spesso la gente si chiede come mai riceve così tanta posta rispetto a un suo amico che invece non ha questo genere di problemi, magari hanno entrambi la casella su libero. In realtà è perché ci sono moltissimi software che raccolgono, rastrellano questi indirizzi sulle pagine internet, quindi se voi partecipate a forum, non so, avete una mail pubblicata su un sito e così via, il rischio di ricevere dello spam è molto più alto. Però d'altronde se voi dovete pubblicare il vostro indirizzo perché qualcuno vi invii la mail, non ci sono altre soluzioni se non quelle di, appunto, di giocare sul formato dello scritto web. Un'altra buona regola che eviterebbe dello spam in molti casi è quello di, se dovete mandare un'email a molte persone, per esempio se volete ricordare a tutti i vostri amici che è il vostro compleanno il giorno 1 marzo, il 28 febbraio, potete mandare un'email a tutti i vostri amici dicendo ehi, domani compio gli anni, però magari invece di mandarla con tutti gli indirizzi dei vostri amici in chiaro, cioè nel campo tu, si potete mandare questa email utilizzando la funzione di copia carbone nascosta, che è solitamente sotto l'indirizzo tu. In questo modo tutti i vostri amici riceveranno l'email, però non tutti, cioè nessuno vedrà a chi altro è arrivato questa email. Playing the oud, which is a lute, which is a kind of guitar with two strings for each note. Questo è l'8 agosto 2002, questa registrazione. Abbiamo però degli altri modi per cercare di evitare lo spam, e sono, diciamo, degli oggetti che ci possono filtrare lo spam e soprattutto magari imparare quando un messaggio di spam. Un messaggio è di spam o non di spam, e capire a seconda delle nostre scelte cosa fare con i messaggi che arrivano. Un programma che ha una di queste caratteristiche è ad esempio Mozilla Thunderbird. Mozilla Thunderbird è un client di posta che ha appunto questa funzione abbastanza avanzata, che è quella dei filtri bayesiani. Che cosa sono i filtri bayesiani, Alessandro? Abbiamo notato che è colto leggermente. Si divertono a scagliarmi domande all'improvviso. Dunque, vabbè, i filtri bayesiani sono un algoritmo, viene definito comunque uno strumento che è in grado di capire le nostre abitudini, il genere di messaggi che ci arrivano, e quindi dopo che è stato addestrato, insomma, con un po' di messaggi validi e non validi, è in grado di distinguere con una buona precisione quello che ci arriva, e possiamo, diciamo, tranquillamente poi configurare il nostro client di posta affinché, seguendo il filtro bayesiano, elimini la posta indesiderata o comunque la sposti. Cioè, tipo, per esempio, se voglio utilizzare un filtro del genere, ricevo ad esempio un messaggio con scritto che appunto pubblicizza, tanto per esempio, il Viagra, e allora questo messaggio cosa faccio? Gli dico ah no, questo è spam, e allora lui, Firefox, comincia a imparare che quei messaggi, magari che c'è scritto dentro Viagra un po' tante volte, possono essere di spam, ma non solo questo, ovviamente. Esattamente, il mio programma di posta, quando ho ricevuto la mail pubblicitaria di prodotti farmaceutici, l'ha riconosciuta subito, nel senso che non rientrava nelle mail abituali ricevute attraverso quell'account di posta, quindi sono abbastanza efficaci, richiedono un certo addestramento, e in ogni caso è consigliabile configurarli in maniera tale che non eliminino direttamente la posta, perché comunque, essendo basati su delle statistiche, su un'analisi di questo tipo, non sono affidabili al 100%, al 99%, mettiamo. Sì, infatti, perché ovviamente se qualcuno si vuole mandare una mail simpatica con scritto dentro, citato un po' di volte Viagra, ovviamente non è che deve il sistema di posta deve decidere di cancellarcelo e... Esattamente, lo sposta in una casella apposita. Per cui dopo possiamo andare ogni tanto a ricontrollare e vedere che appunto stia funzionando giusto. Infatti ci eravamo ripromessi di parlare più a lungo probabilmente di Thunderbird, ma mi sembra che il tempo stia un po' terminando. Vedremo magari nella prossima puntata di dare un paio di dritte. Nel frattempo vi ricordiamo il sito per scaricarlo, che è lo stesso tra l'altro del programma che abbiamo presentato l'altra volta, ovvero Alessandro. Allora, l'indirizzo è www.mozillaitalia.org se volete la versione in italiano, e altrimenti potete andare direttamente su www.mozilla.org e seguire i vari link per scegliere la lingua in italiano, e potete scaricarlo separatamente oppure, se vi è piaciuto il browser Firefox, scaricare l'intera suite Mozilla, che comprende il browser, il client di posta e altri tool. E basta, penso che a questo punto, dopo aver fatto partire la mitica sigla, potremmo anche salutarci e dare appuntamento la settimana prossima. Un ciao da Francesco. Da Marco, ciao ciao. Ciao a tutti, non so se verrò la prossima volta perché se mi danno... No, in realtà Alessandro non mancherà mai alle nostre registrazioni. Via con la sigla.